Capitolo 4. Cosa si può fare per la scuola? Una mentalità scientifica. Ma cosa si può fare in concreto perché la scuola migliori la cultura scientifica delle nuove generazioni che si stanno formando? Una riforma dei programmi, l'ennesima, incontrerebbe subito una serie di difficoltà, di ostacoli e di resistenze. Quali materie potenziare? Quali ridurre? Cosa tagliare? Come formare gli insegnanti? Eccetera. Tutto questo richiederebbe, tra l'altro, tempi lunghi e probabilmente finirebbe per scontentare tutti. Per quanto mi riguarda, ovviamente, non ho certo le conoscenze e le competenze per entrare in una materia così complessa. Credo però che qualcosa si possa fare se si adotta un criterio più semplice e pragmatico. Non è necessario infatti studiare più chimica, matematica o biologia per capire meglio il ruolo della scienza e della tecnologia nelle nostre società, il loro impatto sull'economia, sulle scelte politiche e tutto il resto. Sarebbe già molto riuscire a diffondere una mentalità scientifica che permetta, per esempio, di far comprendere meglio alcuni concetti di base, che diventino poi dei punti di riferimento per inquadrare i problemi. Questo probabilmente si può fare, e in questo capitolo cercherò di spiegare come. Vorrei partire da un'esperienza personale. Nel corso degli ultimi anni mi sono spesso posto la domanda: in che modo è possibile aiutare i giovani a prepararsi a un futuro così complesso come quello che sta arrivando? Nell'autunno del 2017 sono riuscito a portare avanti un progetto al quale tenevo molto, realizzando una prima importante sperimentazione al Politecnico di Torino. Il Politecnico di Torino, come noto, è una delle eccellenze italiane, una grande università con oltre 30.000 iscritti. Grazie alla collaborazione del rettore, dei docenti, della Compagnia di San Paolo e del suo presidente, il professor Francesco Profumo, in passato al vertice del CNR ed ex ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ricordo che quando gliene parlai vidi i suoi occhi brillare, i progetti si realizzano solo se le persone ci credono, in poco tempo tutto venne organizzato. L'idea era quella di riunire nell'Aula Magna i 400 migliori studenti del Politecnico, quelli con i voti più alti, e anche una selezione dei migliori studenti delle medie superiori di Torino, sempre su base volontaria, ma con l'impegno di seguire un corso. A questo punto sono partiti gli inviti a personalità di altissimo rilievo in tutti i campi: scienziati, economisti, manager, alti funzionari dello Stato, imprenditori, statistici, demografi, informatici, eccetera, per tenere conferenze, interviste e dialogare con gli studenti. Tutti hanno accettato, spesso con vero entusiasmo, senza compenso e arrivando da altre città, a volte anche dall'estero. Il progetto era il seguente: nell'arco di 5 anni circa 2.000 brillanti studenti sarebbero passati attraverso questa esperienza, giovani destinati a diventare classe dirigente e a formare un nucleo non esiguo di laureati di alta qualità inseriti nel tessuto locale. Un'esperienza vissuta assieme ad altri giovani motivati, creando così anche futuri legami utili. Nell'arco di 3 anni, 2018, 2019, 2020, oltre 80 personalità in ogni campo hanno partecipato a questi incontri al Politecnico di Torino e l'elenco disponibile è davvero stellare. L'iniziativa è stata subito replicata in 2 altre importanti università italiane, quella di Trento e quella di Roma Tor Vergata, mentre altre ancora prendevano contatti per saperne di più. Poi è arrivato il Covid e purtroppo non è stato più possibile continuare. Ma l'esperienza ha mostrato che il progetto funziona e il Covid, paradossalmente, ci è stato di aiuto per poter sviluppare un altro progetto potenzialmente ancora più efficace. Infatti, tutto l'insegnamento fatto nel frattempo in remoto nelle scuole e la diffusione di attrezzature adatte allo scopo ha aperto una nuova via di comunicazione, non più in presenza ma virtuale. Già in passato sarebbe stato possibile, ma in forma ridotta. Oggi esiste invece una copertura capillare che consente nuove iniziative. In particolare penso alla possibilità di diffondere questi incontri in diretta o in differita tramite registrazioni in moltissime aule in tutta Italia, sia in contemporanea che in tempi diversi e secondo le esigenze degli insegnanti. Gli argomenti possono essere tantissimi, dal debito pubblico alla produttività, dall'attrattività di un paese all'informazione, dai problemi di medio-lungo termine all'ambiente, dalla situazione energetica alle prospettive demografiche, dal metodo scientifico alla pseudoscienza, eccetera. In questo modo le migliori menti e i migliori esperti potrebbero entrare nella scuola per seminare stimoli e concetti con una flessibilità facilmente governabile. Uno di questi concetti potrebbe essere la strettissima connessione tra vantaggi e svantaggi derivanti da qualunque scelta. Nella vita noi tendiamo di solito a cercare solo i vantaggi ed è umano che sia così, ma la realtà è naturalmente diversa. I pro e i contro, come si dice, sono sempre collegati con altri fattori, magari meno visibili. Conoscere queste correlazioni e tenerne conto è essenziale nel momento in cui bisogna prendere una decisione o anche giudicare una situazione. In altre parole, sempre. Il concetto è ben chiaro. Quando si tratta di fare un acquisto, c'è un prezzo da pagare e la valutazione, almeno in apparenza, è chiara e diretta. Ma le cose di solito non sono così semplici. E vorrei raccontare in proposito un'esperienza professionale interessante. Negli anni Ottanta lessi che in Venezuela era nato un ministero per lo sviluppo dell'intelligenza. Ma che roba è? Mi chiesi. Si trattava di un'iniziativa appoggiata dal Presidente della Repubblica e che coinvolgeva ospedali infantili, programmi radio, associazioni di volontariato, ma soprattutto la scuola, a partire dalle classi materne fino alle medie superiori. Il progetto era stato affidato a due autorevoli psicologi, il professor Richard Herrstein dell'Università di Harvard e il professor Edward De Bono dell'Università di Oxford. Lo scopo era quello di applicare sul campo le conoscenze acquisite in quegli anni sullo sviluppo mentale del bambino, in particolare in contesti socio-economici svantaggiati. Me ne ero molto occupato anni prima per il libro Da 0 a 3 anni. Decisi quindi di andare a vedere questo insolito esperimento per farne un programma televisivo. Non è questa la sede per spiegare le varie fasi: coinvolgimento delle madri già al momento della nascita, 10 brevi programmi radio quotidiani, visite di volontari a domicilio per insegnare alle madri come interagire, apprendimento del gioco degli scacchi, eccetera. La parte principale del progetto era dedicata alla scuola e alla formazione di un giudizio attraverso l'analisi dei vari fattori collegati. Si partiva da esempi semplici, poi si passava a situazioni più complesse, ogni volta collegando i vantaggi e gli svantaggi di una scelta e calibrando a mano anche il loro peso specifico. Ne usciva una strategia di ragionamento che metteva in evidenza certe connessioni e le incompatibilità che a un giudizio sommario potevano essere trascurate o sottostimate. Ogni problema veniva smontato nelle sue varie parti e valutato nelle sue conseguenze. Per comodità didattica erano state persino create delle sequenze standard che facilitavano l'analisi. Farò un solo piccolo esempio per spiegare il senso di tutto questo. Andando in giro tra le scuole con la direttrice dei corsi, vidi per strada su un muro un manifesto elettorale. Era tempo di elezioni presidenziali e un candidato, un certo Martinez, proponeva la sua candidatura. Lo slogan sotto la sua fotografia recitava «La solución, Martinez». La fotografia rappresentava un uomo dall'aspetto affidabile, con un sorriso rassicurante che sembrava trasmettere un messaggio. «State tranquilli, ci penso io». Chiese alla direttrice come i suoi allievi avrebbero giudicato questo manifesto. Mi rispose: «Avrebbero detto intanto andiamo a vedere chi è questo Martinez, che cosa ha fatto, qual è il suo curriculum, quali studi ha compiuto, quali sono le sue competenze, le sue proposte sono realistiche o sono promesse eccessive che non potrà poi mantenere, cosa dicono i suoi sostenitori, ma anche i suoi avversari politici, cosa è stato scritto su di lui in passato, è stato coinvolto in qualche vicenda poco chiara? Quante persone nelle precedenti elezioni lo hanno votato? Potrebbe spiegare meglio perché è proprio lui la soluzione, eccetera». Per la cronaca, le elezioni per la presidenza del Venezuela le vinse un altro candidato che, arrivato al potere, non portò avanti il progetto e la cosa finì lì. Tornando a noi, insegnare ad affrontare i problemi tenendo conto delle varie connessioni e sapere che c'è sempre un prezzo da pagare o che esistono vincoli che non possono essere ignorati è fondamentale perché aiuta a porsi la vera domanda, cioè quali svantaggi sono disposto ad accettare per avere quel determinato vantaggio. Questo vale a livello individuale, ma soprattutto a livello sociale, quando si debbono affrontare scelte impegnative, ambientali, energetiche, educative, economiche, che comportano rinunce o sacrifici. Qui si accettano soltanto i benefici, non i costi. Molte delle nostre crisi sono dovute proprio all'incompatibilità di certe scelte. È solo un esempio, ma attraverso questi incontri i giovani potrebbero scoprire, in modo chiaro e partecipato, tanti concetti che sono alla base dei problemi che il paese deve affrontare e che difficilmente troverebbero altrove spiegati a loro misura. Sempre in questa direzione ho preparato dell'altro materiale, ma in un formato ancora diverso. Nel giugno 2021, infatti, al Ministero della Pubblica Istruzione a Roma ho avuto un incontro con il ministro Patrizio Bianchi, la sottosegretaria Barbara Floridia e il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani. A loro ho esposto l'idea di una serie speciale di programmi intitolata «Prepararsi al futuro». Gli insegnanti potrebbero disporre di un materiale molto attuale e mirato, realizzato appositamente per gli studenti delle scuole medie superiori. L'idea è stata accolta con grande favore e mi sono messo subito al lavoro con gli autori e i registi di Superquark. Abbiamo dedicato a questo progetto più di un anno e la serie è ora pronta, a disposizione delle scuole. Si tratta di 16 puntate di mezz'ora, prodotte dalla RAI e da me condotte. I testi sono stati rivisti da specialisti competenti e l'elenco dei titoli permette di avere un'idea degli argomenti trattati. Introduzione. Il clima. L'energia pulita. Eolico e solare. Efficienza energetica. L'impronta ecologica. La nuova agricoltura. La transizione economica. Scienza e tecnologia. Il metodo scientifico. La macchina della ricchezza. Debito pubblico e produttività. La transizione delle aziende e del lavoro, intelligenza artificiale, la demografia, equilibri e squilibri. Gli argomenti potrebbero essere scelti tenendo conto anche dell'attualità, grazie alla disponibilità delle registrazioni. Non solo, gli studenti potrebbero rivedere i filmati sul loro computer ed eventualmente anche scaricare i testi. Mi scuso per essermi dilungato su questa proposta, però mi sembrava utile spiegare che si tratta di un progetto non solo fattibile, ma già pronto. Un contributo concreto che attende solo di essere utilizzato. Capitolo 5. La nostra cultura. La cultura con la C maiuscola. Abbiamo già accennato al ritardo culturale del nostro paese che ci impedisce di entrare a pieno titolo nella modernità. Essendo uno dei problemi principali che frena la nostra crescita, credo che valga la pena approfondirlo ulteriormente. Quando si parla di cultura si intende solitamente quella con la C maiuscola. È quella che si ritrova nelle pagine culturali dei quotidiani, che sono sostanzialmente pagine letterarie. Per definizione la cultura è letteratura, filosofia, poesia, fiancheggiate da arti figurative, musica, teatro, storiografia. Sono accettate anche sociologia e antropologia. Freud è molto benvenuto, ma solo se si incrocia con il vissuto emozionale. Assai raramente compare qualche filosofo della scienza, su temi però il più delle volte specialistici. Gli economisti non sono invitati a scrivere nelle pagine culturali, ma relegati nella sezione dedicata alle questioni economiche e finanziarie. I politologi vengono collocati nella cronaca politica e coloro che scrivono di scienza nella pagina Scienza e Tecnica, quando esiste, cioè raramente. A parte lodevoli eccezioni, questa è una sezione che raccoglie soprattutto curiosità scientifiche, brevi articoli su temi di attualità e in particolare su argomenti di medicina, con annesse novità sulle cure di bellezza. È evidente che un giornale deve pubblicare le notizie che più interessano al pubblico, ma quello che stupisce è la grande differenza di spessore tra le pagine di scienza e tecnica e quelle letterarie. Per la scienza è sostanzialmente soltanto un notiziario o poco più. Per la letteratura articoli di approfondimento, molto pensati e ragionati. In altre parole, il pensiero colto è praticamente monopolizzato dalle pagine letterarie. Economia, politica e scienze, insomma, non entrano quasi mai nella dimensione culturale. Non solo, ma l'ecosistema cultura, economia, politica, scienza, tecnologia, anziché essere riunito e collegato in un solo contesto, così come avviene in una partita a scacchi dove è l'insieme che dà origine al gioco, proprio perché ogni pezzo e ogni suo movimento influenza tutti gli altri, viene invece affettato in tanti pezzetti separati e sparpagliati in sezioni diverse. L'unica sintesi, molto raramente, la si trova in certi articoli di fondo, che sono però il frutto sporadico di qualche singolo editorialista. Naturalmente ci sono eccezioni, ma è un fatto che la cultura, quella con la C maiuscola, nella percezione del pubblico sia proprio quella stessa che si trova solitamente nelle pagine culturali dei giornali. In realtà si tratta di pagine che dovrebbero essere rubricate sotto un altro titolo, arti, libri, storia, eccetera. Il New York Times, tanto per fare un esempio, ha l'inserto arti, quello libri, quello educazione, ma non ha l'inserto cultura. E ha un ottimo inserto scienza. Non è una pignoleria, è un messaggio fuorviante che si dà quotidianamente al lettore, definendo cultura soltanto una parte del sapere e dando l'impressione che sia questa la forma più alta di pensiero, quella che si interroga sulle grandi questioni dell'essere umano e del mondo, trovando magari anche delle risposte, e lasciando fuori dalla porta tutta una conoscenza fondamentale che invece permette di capire oggi in profondità sia l'essere umano sia i grandi cambiamenti che stanno avvenendo. Le antiche domande dei filosofi. Per quanto riguarda la scienza, in particolare, che è l'argomento del quale mi occupo nei miei libri e nei miei programmi televisivi, è veramente incomprensibile che la straordinaria rete di conoscenze e di elaborazioni mentali messe oggi a disposizione dalla ricerca scientifica non stimoli il desiderio di conoscenza in un uomo colto. È una forma di automutilazione, per me sorprendente, anche perché la scienza si pone proprio le antiche domande dei filosofi e continua a trovare risposte, sia pure in certi casi incomplete. Per esempio, da dove veniamo? Astrofisica. Come è nata la vita sulla Terra? Biochimica. Cos'è la vita? Biologia. Come è nato l'uomo? Paleoantropologia. Perché siamo tutti diversi? Evoluzione. Cos'è il cervello? Neurologia. Cos'è il comportamento e cosa sono le emozioni? Psicobiologia. Come mai da una cellula nasce un individuo completo? Embriologia. Qual è la struttura intima della vita? Genetica. Quali sono le particelle più piccole della materia? Fisica delle particelle. In cosa siamo diversi dagli animali? Anatomia comparata. Come si comporta nel suo intimo la materia? Meccanica quantistica. Cosa sono lo spazio e il tempo? Relatività. Eccetera. A me sembra davvero molto strano che una persona intellettualmente accesa non sia interessata a entrare in questo mondo straordinario della conoscenza, cercando le connessioni utili per capire meglio il mondo, l'essere umano, la materia, la vita, la società, il comportamento, l'intelligenza e tantissime altre cose, guardando al proprio interno con un occhio nuovo e comprendendo più a fondo anche il nostro rapporto con il mondo e con gli altri. Una scienza tagliata a fette. Questa poca partecipazione degli uomini di cultura a un'esplorazione così stimolante parte da lontano e dipende forse da come la scuola insegna la scienza, in modo spezzettato. C'è l'ora di chimica, quella di biologia, quella di fisica, quella di matematica, ma manca una visione filosofica, per così dire, di questi vari tipi di conoscenza. Manca anche una spiegazione del metodo della scienza, così importante per capire l'etica della ricerca. A scuola si insegnano le materie scientifiche, ma non si insegna la scienza, anche se molti docenti si prodigano personalmente. E ancor meno si insegna il ruolo rivoluzionario che la scienza e la tecnologia hanno nello sviluppo umano, nell'economia, nella conoscenza di noi stessi, nella visione del mondo. Un'altra ragione della lontananza della cultura classica dalla scienza è probabilmente la difficoltà del linguaggio scientifico. Come abbiamo già detto, chiunque può leggere in originale un testo letterario, storico, anche filosofico, ma per leggere in originale un articolo di scienza occorre padroneggiare un lessico che è da specialisti e conoscere una materia vastissima in perenne evoluzione. Ma forse c'è anche un'altra ragione più semplice. La scienza è assente dal dibattito culturale perché gli scienziati sono assenti. Per natura sono restii a parlare dei massimi sistemi. Inoltre sono in genere specializzati in campi specifici e sono abituati a lavorare con i numeri più che con le parole. Quando ci si lamenta dell'assenza di una cultura scientifica nella società, occorrerebbe che pure gli scienziati facessero autocritica. Anche se molti, negli ultimi anni, sono usciti dalla torre e hanno cominciato a scrivere, spesso con talento, libri di divulgazione. Tuttavia manca una voce forte e organizzata da parte della comunità degli scienziati per intervenire ogni volta in modo energico su temi importanti come quello della cultura scientifica, ma non solo. È forse l'unica comunità che non è attrezzata per farsi sentire, come avviene invece per tutte le altre, attraverso associazioni, manifestazioni, conferenze stampa, denunce o addirittura scioperi, ottenendo così attenzione da parte della stampa. Rimane però il fatto che la proprietà delle parole e del pensiero moderno è in pratica monopolizzata dalla cultura letteraria. E la cultura tecnologica non trova modo di esprimersi, e questo sta creando danni molto seri. Una cultura contadina. Non capire il ruolo filosofico che svolge la tecnologia nella trasformazione della società e della condizione umana, e la profonda azione trasformatrice che ha anche nella politica e nella stessa cultura, significa non riuscire a leggere il proprio tempo. E se non si riesce a leggere il proprio tempo, non si può neanche scriverci sopra. Però in queste condizioni diventa difficile per la cultura svolgere quel ruolo di guida che è indispensabile per una società moderna. Nella tradizione italiana, la cultura scientifica ha conosciuto alti e bassi, ma è rimasta sostanzialmente marginale, nel senso che non si è mai tradotta in cultura diffusa, malgrado gli sforzi di tanti illustri scienziati e filosofi della scienza. Nel nostro paese è la cultura classica a essere rimasta il pilastro della conoscenza, il punto di riferimento intellettuale per la comprensione del mondo e dell'uomo. Il fatto è che in passato le società erano più semplici, le cose cambiavano lentamente, la tecnologia incideva in misura molto minore e comunque il cambiamento si spalmava su tempi lunghi. La cultura era l'espressione di una società contadina, povera, poco alfabetizzata, sulla quale svettava un'élite raffinata, la sola a possedere il dono della parola e che parlava a nome di tutti. Una cultura ispirata, da un lato, ai grandi autori e pensatori del passato, dall'altro rivolta soprattutto alla condizione umana, all'uomo, ai sentimenti, alle speranze, anche alle problematiche sociali. I cambiamenti indotti dalla tecnologia venivano visti, ma anche oggi è così, più sul versante del vissuto personale che nella dinamica degli eventi. Liberazioni e democrazie. Questo tipo di cultura ha prodotto opere importanti e capolavori che hanno riempito intere biblioteche, ma non è riuscito ad aiutare la società a leggere e a capire davvero le grandi forze che hanno modificato il mondo e cambiato il destino degli uomini. Non ha spiegato, per esempio, che la liberazione femminile è un sottoprodotto del petrolio, perché senza tecnoenergia la donna non avrebbe potuto andare a scuola, diplomarsi, laurearsi, lavorare fuori casa, rendersi indipendente, ottenere diritti un tempo impensabili, diventare chirurgo, pilota, commissario di polizia, direttore di giornale, magistrato, ministro, anziché pelar patate e dar da mangiare alle galline. Non ha spiegato bene che anche la democrazia dipende direttamente dalla tecnoenergia, come abbiamo visto in precedenza nel paragrafo La nascita della democrazia. Lo sviluppo democratico è infatti largamente legato allo sviluppo tecnologico. È molto difficile che in una società pre-tecnologica esistano le caratteristiche tipiche di una democrazia compiuta. È interessante a questo punto guardare la tabella seguente dove sono elencati alcuni paesi rappresentativi per quanto riguarda lo sviluppo del terziario, del reddito pro capite e del consumo di energia nel 2021. Rapporto tra reddito, occupazione e consumo di elettricità nel mondo. Stati Uniti. Reddito pro capite in dollari 60.200. Addetti agricoltura 0,9%. Addetti industria 19,1%. Addetti servizi 80%. Energia kilowattora per 1000 89. Germania. Reddito pro capite in dollari 50.900. Addetti agricoltura 1,4%. Addetti industria 24,2%. Addetti servizi 74,3%. Energia 47,1%. Svezia. Reddito pro capite 50.700. Addetti agricoltura 2%. Addetti industria 12%. Addetti servizi 86%. Energia 61,7%. Francia. Reddito pro capite 42.000. Addetti agricoltura 2,8%. Addetti industria 20%. Addetti servizi 77,2%. Energia 44,2%. Italia. Reddito pro capite 39.000. Addetti agricoltura 3,9%. Addetti industria 28,3%. Addetti servizi 67,8%. Energia 33%. Spagna. Reddito pro capite 36.200. Addetti agricoltura 4,2%, addetti industria 24%, addetti servizi 71,7%, energia 35,9%. Russia, reddito pro capite 26.500, addetti agricoltura 9,4%, addetti industria 27,6%, addetti servizi 63%, energia 66,7%. Messico. Reddito pro capite 17.900, addetti agricoltura 13,4%, addetti industria 24,1%, addetti servizi 61,9%, energia 18%. Camerun, reddito pro capite 3.600, addetti agricoltura 70%, addetti industria 13%, addetti servizi 17%, energia 1,8%. Appare evidente che mediamente questi tre sviluppi corrispondono anche a un maggior sviluppo democratico, o per meglio dire forniscono le condizioni adatte per lo sviluppo democratico, perché sono questi i fattori che contano al di là delle alterne vicende politiche. Infatti può succedere che per ragioni storiche anche un paese appartenente a un'area sviluppata come quella europea conosca l'eclissi della democrazia. È successo nel Novecento in Germania, in Italia, in Spagna, ma erano paesi in cui, finita la dittatura, esistevano tutte le condizioni per ritrovare una società a pieno titolo democratica. La Spagna, in proposito, è un esempio interessante. Con l'ascesa al potere del generalissimo Franco, negli anni 30 del Novecento, conobbe 40 anni di dittatura. Niente elezioni, niente partiti, niente sindacati, niente libertà di stampa. Quando il regime di Franco cadde, nel 1975, la Spagna tornò tranquillamente, direi spontaneamente, a essere una società democratica, grazie al suo ecosistema interno. Se invece in un paese sottosviluppato viene abbattuto un regime dittatoriale, è ben difficile che emerga spontaneamente una società veramente democratica, perché il suo ecosistema interno non possiede quegli elementi di software diffuso e quello sviluppo tecno-energetico, educativo, economico, culturale che è all'origine di una società evoluta e anche di un diverso rapporto di forza tra i cittadini e il potere. Ciò spiega la difficoltà di trasferire modelli di democrazia occidentali in paesi che hanno ecosistemi molto diversi. Non basta cambiare cappello politico perché la società improvvisamente cambi. Cosa può fare la cultura? Ma cosa può fare la cultura per migliorare le cose nel nostro paese? Può fare moltissimo, se stimola la consapevolezza su questi problemi. Ovviamente ciò non significa che poeti, artisti, romanzieri, musicisti debbano improvvisamente occuparsi di ecosistemi tecnologici. Per chiarire quello che intendo dire, vorrei fare un paragone con un campo molto affine, quello degli ecosistemi naturali. Qui da tempo si è sviluppata una consapevolezza diffusa nei confronti dei problemi ambientali, per quanto riguarda l'inquinamento, la necessità di tutelare certi equilibri e di compiere ricerche approfondite sulle dinamiche ecologiche, sulle distorsioni che si producono, sui possibili rimedi. Oggi su queste problematiche esistono insegnamenti universitari, libri, riviste, trasmissioni televisive, dibattiti, manifestazioni, associazioni di cittadini, leggi, finanziamenti e persino un ministero. Si è creata cioè una cultura ambientalista molto diffusa, che ha influenzato anche la letteratura e le arti, con la nascita di formazioni politiche che premono direttamente sull'azione del governo. Invece, non si vede nulla del genere per quanto riguarda l'ecologia tecnologica. Non si è formata la consapevolezza del ruolo che ha questo nuovo ecosistema, determinante per lo sviluppo del paese. Non c'è stata e continua a non esserci una vera elaborazione culturale su questi temi. Un approfondimento di idee, un fermento di iniziative e di proposte, un coinvolgimento dell'opinione pubblica, dell'informazione, della scuola, della televisione. Quindi, il tipo di cultura di cui stiamo parlando non si identifica con certe categorie tradizionali, ma piuttosto con l'assenza di un pensiero moderno che sappia fertilizzare trasversalmente la politica, l'economia, l'informazione, la televisione e la stessa cultura, così come avviene per i problemi ambientali. E che sappia spiegare che oggi la macchina sulla quale viaggiamo è cambiata e che i vecchi libretti di istruzioni per l'uso non sono più adatti a un mondo che si sta trasformando rapidamente, proprio per via dello sviluppo scientifico e tecnologico. Un mondo nuovo con il quale dobbiamo duramente confrontarci. Il fatto è che in Italia esistono tantissime intelligenze individuali, ma manca un'intelligenza di sistema. La cultura potrebbe essere un forte acceleratore proprio per la sua capacità di diffondere consapevolezze, elaborando idee nuove e influenzando l'informazione, l'opinione pubblica, la politica. A sua volta la politica, come è avvenuto per l'ecosistema naturale, potrebbe attivare altri acceleratori, agendo sui punti sensibili. Capitolo 6. Informazione e televisione. Sangue, sesso, soldi e salute. La mancata comprensione del ruolo di scienza e tecnologia e del loro ecosistema che ormai permea tutta la nostra vita non dipende soltanto dai ritardi culturali di cui abbiamo parlato. È il modo stesso in cui funziona l'informazione che rende difficile affrontare questi problemi complessi. Possiamo infatti chiederci: cos'è una notizia? Ogni volta che si sparge del sangue, c'è una notizia. Delitti, omicidi, stupri, ferimenti, sfregi, crolli, cadute, sparatorie, incidenti di ogni tipo e relative cronache giudiziarie rappresentano gli argomenti di maggiore attrazione per il lettore. È un modo per chi legge di capire cosa potrebbe capitargli, ma al tempo stesso di rassicurarsi dal momento che non è capitato a lui. È il tipo di attrazione che si prova quando, passando in macchina davanti a un incidente stradale, si guardano le auto accartocciate e i feriti a terra. Quanto più è grave il fatto, naturalmente, tanto più vistoso è il titolo. Ed entra qui in gioco l'effetto concentrazione. Un incidente d'auto con 5 morti fa più notizia di 5 incidenti d'auto da un morto. Ancora più impressionante è la morte contemporanea di 100 persone in un incidente aereo, mentre non fanno quasi notizia 100 persone che muoiono alla spicciolata sulle strade italiane ogni settimana. E poi c'è il sesso, con tutto il suo repertorio di passioni, di tradimenti, di ricongiungimenti e anche eventualmente di delitti, che alimentano del resto non solo i giornali ma anche il cinema, i romanzi, la televisione, il teatro, la lirica, eccetera. Quanto ai soldi, sappiamo bene che fanno notizia, sotto forma di premi, vincite alla lotteria di Capodanno, al Superenalotto, in borsa, ma soprattutto sotto forma di punizioni, tasse, aumento delle tariffe, inflazione, scioperi per rinnovi contrattuali. Per quel che riguarda la salute, molti giornali hanno ormai intere pagine specializzate dove i lettori cercano buone notizie per i loro mali e nuove cure per le loro malattie, sperando sempre nel gran premio, la cura per il cancro, o alternativamente in terapie prodigiose. Ricordate il metodo di Bella, in guarigioni bioenergetiche, in farmaci alternativi o eventualmente in miracoli di Padre Pio da Pietrelcina. Ci sono poi le lotte per la sopravvivenza in senso figurato, per esempio la crisi di una coalizione politica o di un'azienda o di una coppia celebre oppure di una squadra di calcio. E, ancor più, la loro morte, la caduta di un governo, il fallimento di un'impresa, un divorzio fra VIP, la retrocessione di una squadra di calcio. La stessa politica viene vista come uno scontro tra schieramenti o tra protagonisti, vittoriosi o sconfitti, con i suoi morti e feriti sul campo. Il confronto fra due leader in televisione è vissuto come un incontro di pugilato dove le parole prendono il posto dei pugni. Alla fine del match si contano i punti. Il ruolo della televisione. Questo è vero soprattutto per la televisione che raggiunge milioni di persone in modo capillare, anche quelle che non leggono giornali. L'Italia ha uno dei più bassi indici in Europa per la lettura dei quotidiani. Nei libri, secondo l'Istat, solo il 41,4% degli italiani di più di 6 anni ha letto almeno un libro nel 2020. La televisione rappresenta quindi per la maggior parte degli italiani il solo aggancio culturale col proprio tempo, per conoscere e capire le grandi trasformazioni che stanno avvenendo. Ciò vale non soltanto per quella maggioranza della popolazione adulta che ha poco più della licenza elementare, ma per tutti. Ognuno di noi, anche il più istruito, ha bisogno di essere continuamente informato e aggiornato sulle correnti profonde che provocano i cambiamenti. L'informazione che vediamo in televisione è apparentemente sempre diversa, ma in realtà è sempre la stessa. Gli incidenti, le rapine, i regolamenti di conti, i sassi contro la polizia in qualche paese del mondo, una cerimonia solenne, una sfilata di moda, l'ultimo disco di un cantante, l'andamento dell'indice di borsa e naturalmente le polemiche tra partiti e tra uomini politici, spesso decifrabili a fatica dal telespettatore medio. Mi viene in mente in proposito quello che disse tanti anni fa un mio caporedattore a un collega di Genova che gli proponeva un servizio sul varo di una nave. Ricordati che il varo interessa solo se va male. Anche per le notizie scientifiche accade spesso qualcosa di analogo. Interessano soprattutto le notizie spettacolari, o sconcertanti, o catastrofiche. Naturalmente esistono programmi di approfondimento, rubriche giornalistiche, dibattiti, ma il più delle volte sono legati a problemi di attualità, di cronaca o di politica, che risentono inevitabilmente delle emozioni del momento e spesso sono teatro di scontro tra i partecipanti, soprattutto quando sono in diretta. Lo scontro, del resto, è spesso desiderato perché, come si sa, è uno degli ingredienti più sicuri per alzare l'indice d'ascolto di un programma e trattenere il pubblico davanti allo schermo. Il fatto è che per coinvolgere emotivamente il pubblico, questi programmi, in particolare i dibattiti, trattano soprattutto i grandi temi della distribuzione della ricchezza, i livelli salariali, le ingiustizie, le pensioni, gli aiuti alla famiglia, l'assistenza sanitaria, gli asili nido, la casa, le cure agli anziani, l'insufficienza di fondi per tanti aspetti della vita sociale, eccetera. Ma raramente si occupano di temi legati alla produzione di ricchezza. Per esempio, come migliorare la competitività, come avere scuole che preparino meglio i giovani e università che siano centri di eccellenza, come incentivare l'innovazione e la ricerca, come sviluppare la capacità produttiva, in quale modo diffondere conoscenze e alzare il livello culturale della popolazione, e ancora la preparazione della classe dirigente, il sapere, il saper fare, la selezione dei più capaci, la valutazione del rendimento, la valorizzazione del merito, eccetera. Quanti programmi e dibattiti si vedono su questi argomenti? Eppure è proprio la capacità di produrre più ricchezza che permette di disporre di maggiori mezzi per distribuire la ricchezza stessa. Torneremo tra poco sull'argomento perché questo è un punto particolarmente importante per la televisione ma anche per il paese. Il problema è che si tratta di argomenti meno eccitanti e anche più difficili e proprio per questo meno portatori di audience, quindi meno adatti a essere collocati nelle ore buone e anche nelle altre. Questo taglio delle informazioni, influenzato dalle oscillazioni emotive per suscitare attenzione e quindi creare ascolto, finisce fatalmente per condizionare la scelta degli argomenti e restringere il campo visivo. Quello che manca, lo dico da spettatore, è la comprensione del contesto, dei meccanismi, dei perché. Si sente la carenza di programmi in grado di dare una visione più ampia della realtà che ci circonda. Quindi non solo di trasmissioni culturali di tipo artistico, musica, arti figurative, letteratura, teatro, opera, balletto, eccetera, ma anche di quella cultura della conoscenza che cerca di decifrare i fatti, le idee, gli uomini e di offrire moderni strumenti per capire il mondo. I programmi che tentano di affrontare questi argomenti sono penalizzati, vengono collocati il più delle volte in orari defilati e addirittura tendono a scomparire sacrificati alla logica dell'audience. La televisione avrebbe invece un grande ruolo per far emergere e rendere chiari alcuni concetti fondamentali che spesso rimangono in secondo piano. Per quanto riguarda la scienza, per esempio, la televisione non deve sostituirsi alla scuola, non deve insegnare la fisica, la biologia, la chimica, la matematica, eccetera, ma deve far capire il ruolo che queste discipline hanno nello sviluppo di una società, favorendo così la crescita di una mentalità scientifica. Ciò vale anche per molti altri campi, in particolare l'economia, dove occorre far capire che non si ottengono mai premi gratis. Per ogni vantaggio che si vuole ricavare, bisogna sempre pagare un prezzo e non si possono ottenere risultati incompatibili fra di loro. Certo, tentare di spiegare come funziona una società complessa è meno avvincente che raccontare una storia d'amore. L'audience risponde molto meglio con i film d'azione, le partite di calcio o con il Festival di Sanremo. La domanda da porsi è dunque: come evitare di perdere troppi ascolti con la cultura della conoscenza? Il primo punto, naturalmente, riguarda il modo in cui realizzare i programmi. E qui ci sono varie osservazioni da fare. La più importante è che la cultura ha una nemica terribile, continuamente appostata dietro l'angolo, sempre con il fucile puntato: la noia. Se ci si annoia, parte la fucilata e lo spettatore se ne va e non torna più la prossima volta. Ci sono due guardie del corpo che possono difendere i programmi culturali, anche loro ben armate: la chiarezza di linguaggio e la creatività. La chiarezza di linguaggio è indispensabile perché se non si capisce o si ha difficoltà a seguire, a un certo punto scatta il dito sul grilletto del telecomando. Quando si capisce, invece, poiché le cose vengono spiegate non solo in modo chiaro ma anche avvincente, aumenta di molto la probabilità che lo spettatore rimanga in ascolto. Tuttavia si può fare di più. E qui interviene la seconda guardia del corpo, la creatività. Le sue armi sono le animazioni, le ricostruzioni virtuali, le sequenze di film o sceneggiati, le scenografie, l'inserimento di storie di personaggi, di piccoli enigmi da risolvere, di esempi calzanti, di battute divertenti, di curiosità, eccetera. Riunendo poi tutti questi elementi in un racconto stimolante, che sia dalla parte del pubblico per il linguaggio, ma sempre rigorosamente dalla parte degli esperti per i contenuti. Naturalmente non ci sono formule magiche. È come dipingere. Non bastano i colori e i pennelli, bisogna saperli usare. Per questo sono necessari pittori in grado di fare bene il proprio mestiere. Riuscire a realizzare programmi culturali interessanti e attraenti, che non respingano il pubblico, ha un duplice e molto importante vantaggio. Primo, raggiungere una platea consistente. Secondo, non essere cancellati dalle leggi inesorabili dell'audience. Cominciamo dal primo punto con una domanda. La televisione, quando fa programmi culturali, deve porsi l'obiettivo di raggiungere le piccole minoranze di coloro che già comprano i libri, vanno ai concerti, si informano, hanno buoni studi e buone letture? Oppure deve raggiungere la grande maggioranza di coloro che non comprano libri e che non hanno solitamente occasione di incontrarsi con il mondo del sapere, dell'arte e della conoscenza? Credo che sia questa la larga maggioranza ad avere il diritto di precedenza. Anche perché, va aggiunto, tutti noi siamo ignoranti quando ci dobbiamo confrontare con argomenti che non conosciamo. Se si parla di fisica a un magistrato o di genetica a un avvocato, è già tanto se ricordano le nozioni imparate al liceo. Hanno quindi anch'essi bisogno di divulgazione ad ampio raggio. Ciò vale per gran parte delle materie e degli argomenti, dall'economia alla musica, dall'archeologia alla medicina, dalla storia all'arte. Nessuno può essere competente in tutte queste materie e ognuno, per quanto sia colto nel proprio campo, ha bisogno di divulgazione. In altre parole, la divulgazione culturale fatta in modo interessante è necessaria non solo alle persone di scarsa preparazione, ma anche ai più colti quando si avvicinano a un argomento che non conoscono. È quindi un modo per portare a un vasto pubblico, anche di prima serata, argomenti che, se trattati con un linguaggio specialistico, sarebbero collocati fatalmente a ore notturne o addirittura sostituiti con programmi di intrattenimento. E qui arriviamo al secondo punto, cioè la difficoltà per i programmi culturali di sopravvivere nella programmazione televisiva. Perché questo avviene? C'è un dato fondamentale che va posto sempre al centro di qualsiasi dibattito sulla televisione, un dato che quasi mai viene citato, ed è il seguente. È ben noto che nella rilevazione degli ascolti esiste il cosiddetto share, cioè la percentuale d'ascolto che ogni programma ottiene. Si sa anche che più un programma è visto, più alta è la tariffa per un'inserzione pubblicitaria, così come avviene per la tiratura di un giornale. Quindi, più alto è lo share, maggiori sono i quattrini che una compagnia televisiva incassa. Ci sono reti televisive, come la BBC, spesso evocata come modello, che non hanno l'assillo dell'audience perché non trasmettono pubblicità. Quindi, se un programma ottiene uno share alto o basso, ciò non provoca problemi assillanti nei bilanci perché gli introiti provengono unicamente dal canone di abbonamento, che rimane costante, un canone che è 2 o 3 volte più alto di quello RAI. In altre parole, il sistema premi-punizioni che regola i programmi televisivi della RAI funziona proprio al contrario, cioè scoraggia la messa in onda di programmi di tipo culturale e favorisce invece i programmi di intrattenimento. Il meccanismo è molto evidente, infatti se si perdono milioni di euro in evasione del canone, come accadeva in passato, e per scarse entrate pubblicitarie, da qualche parte bisogna recuperare questi soldi per far quadrare i bilanci. E i soldi si trovano unicamente aumentando lo share, in modo da ottenere maggiori introiti pubblicitari. Ma per aumentare lo share bisogna acchiappare più pubblico e per farlo bisogna scendere nella parte bassa della piramide, là dove c'è mediamente meno interesse per i programmi culturali e dove risultano vincenti le trasmissioni che vengono poi vituperate dai critici. Ottenere un buono share, del resto, non è solo un'esigenza aziendale, ma è l'unico modo per ogni singolo programma e programmista per riuscire a sopravvivere. Ci sono obiettivi d'ascolto per ogni rete e per ogni fascia oraria. Si tratta naturalmente di obiettivi flessibili, ma che non possono scendere sotto una certa soglia, altrimenti il programma viene punito con la cancellazione. Analogamente viene premiato un programma, magari di bassa qualità, capace però di portare più introiti pubblicitari. Del resto, questo è il meccanismo in funzione anche nel web e nei social network. Per avere più click, e quindi più audience e pubblicità, si ricorre anche a metodi poco raccomandabili, come le bufale, fake news, cioè notizie false a forte carica emotiva che attraggono larghe platee di pubblico. Tornando alla televisione, c'è anche un risvolto meno appariscente, ma molto importante in questo meccanismo. Negli spot promozionali vengono ovviamente favoriti quei programmi destinati a ottenere un alto ascolto e sui quali spesso si è investito molto, mentre certi programmi di tipo culturale, che avrebbero più bisogno di lanci promozionali, finiscono per passare inevitabilmente in seconda linea. Il discorso potrebbe continuare a lungo, ma è importante comprendere bene la logica del sistema premi-punizioni, in cui si trova a dover funzionare suo malgrado la programmazione televisiva della RAI. Infatti, se si vogliono migliorare le cose, occorre modificare questo sistema, ricorrendo ad altri incentivi e disincentivi. Certo, anche la RAI può fare la sua parte, ma il problema può essere veramente affrontato solo cambiando le regole del gioco. E questo può avvenire soltanto a livello politico. La domanda, quindi, è la seguente: è utile oppure no migliorare la qualità dei programmi televisivi per aiutare la crescita del paese? Se la risposta è sì, esiste allora un vasto ventaglio di opzioni possibili, a condizione che sussista una concomitante volontà politica. Stando attenti a non creare, come qualcuno ha proposto in passato, una rete RAI, la terza, senza pubblicità e destinata unicamente appunto al servizio pubblico. Una tale rete sarebbe un flop clamoroso, non solo perché priva di incentivi d'ascolto e quindi più seduta, ma anche perché diverrebbe il ricettacolo quasi obbligato di mostre, commemorazioni, manifestazioni e dibattiti di scarso interesse per il grande pubblico, tradendo così la sua vocazione di essere strumento di diffusione dei saperi destinato a raggiungere una vasta platea televisiva. Un cambiamento del sistema attuale che sia capace di rispondere alle esigenze che abbiamo poco fa elencato richiede ovviamente molta creatività e competenza. Ci sono in proposito varie idee e suggerimenti che aspettano di essere valutati e trasformati in progetti fattibili. Ed è su questo che dovrebbero impegnarsi uomini di cultura, opinionisti e soprattutto politici. Insomma, è inutile lamentarsi, come fanno tanti, della programmazione RAI se poi non si fa nulla per aiutarla a uscire da questa strettoia, cambiando il sistema di premi e punizioni che regola gli attuali palinsesti. Non esiste alcuna perversione nei dirigenti né negli autori RAI, anzi, ci sono tante persone che sanno fare molto bene il loro lavoro. Basta riorientare il meccanismo e ne deriverà una logica diversa, con risultati diversi. Va anche detto che incoraggiare i programmi di qualità, rendendoli attraenti, è oggi più necessario che mai, in quanto è in corso nel campo televisivo una tendenza alla parcellizzazione e alla specializzazione, con l'affermazione del satellite e del digitale terrestre, oltre che di internet. La concorrenza è aumentata e occorre ancor più creatività e professionalità per riuscire a farsi scegliere da un congruo numero di telespettatori. Del resto, non è soltanto un problema di diffusione di cultura, ma anche di modelli che aiutino i giovani a capire meglio il mondo reale e a prepararsi ad affrontarlo. Naturalmente non si può scaricare soltanto sulla televisione tutto il peso di questo sforzo di adattamento nei confronti di un mondo che cambia rapidamente, ma la televisione ha effettivamente potenzialità molto particolari. La vastità della platea che può raggiungere, l'efficacia nella trasmissione di messaggi e anche la rapidità e la capillarità con cui è in grado di rispondere ai cambiamenti. Medicine alternative, illusioni e tragedie. C'è un altro aspetto legato all'informazione, in particolare alla salute, non solo in televisione ma oggi anche sul web, che desta preoccupazione: la diffusione delle pseudoscienze. È un tema di cui cominciai a occuparmi molti anni fa con un'inchiesta sul mondo del paranormale. All'epoca erano di moda i guaritori filippini, personaggi che operavano a mani nude, estraendo tumori dall'addome dei malati senza lasciare tracce sulla pelle. Erano in realtà dei giochi di prestigio. Il nostro mago Silvan spiegò come facevano. Alle loro cure ricorrevano migliaia di malati, partendo dall'Europa con voli charter. Ma molte altre pratiche straordinarie trovavano e trovano folle di pazienti disposti a lasciare cure valide per seguire terapie illusorie. L'elenco è lunghissimo e al suo interno c'è di tutto. Senza entrare nei dettagli, la cosa che colpisce è che certe persone preferiscano curarsi con queste terapie alternative, non riconosciute come valide dalla scienza, anziché con quelle che hanno dimostrato la loro efficacia. Ma vi pare un comportamento sensato? Come disse saggiamente la madre di Michele Mirabella, io mi curerò con una medicina alternativa quando mi ammalerò di una malattia alternativa. Le ragioni di questo comportamento sono le più varie e anche i casi sono tra loro differenti. Ci sono persone che, per sentito dire, usano prodotti alla moda per curare disturbi leggeri o di tipo ciclico, che probabilmente se ne andrebbero via da soli. Mio padre, che era psichiatra, diceva che per questi disturbi funzionava bene l'ACP. Aspetta che passi. L'effetto placebo in queste situazioni fa naturalmente la sua parte, Piccola parentesi per ricordare che l'effetto placebo esiste in tutte le terapie e ancor più in quelle valide. All'opposto, esistono casi estremi che presentano situazioni irrimediabili, in cui i pazienti spesso tentano di tutto, anche l'impossibile, per salvarsi, e sono disposti a rivolgersi a chiunque proponga una cura miracolosa. All'epoca del caso di Bella mi telefonò un amico che non sentivo da tempo, professore di genetica all'Università di Torino. Mi confidò che aveva metastasi ovunque e mi chiese se potevo procurargli un contatto con Di Bella. Lo so, ma cosa vuoi che faccia nelle mie condizioni? Ci sono però altre persone che hanno malattie serie, ma sulle quali è ancora possibile intervenire e che decidono di curarsi con terapie inefficaci anziché con quelle valide. Questi sono i casi più incomprensibili e più gravi. Qualche anno fa un regista che aveva lavorato con me venne a chiedermi l'indirizzo di un bravo oncologo per un caso disperato di tumore al seno. Gli chiesi quale fosse il problema e mi disse che sua cognata si era curata con l'omeopatia ed era ormai terminale. Morì infatti poche settimane dopo. Un ostetrico, proprio in quel periodo, mi disse di aver visitato una signora anch'essa in gravissime condizioni per un tumore al collo dell'utero, un tumore guaribile nella maggior parte dei casi. Si era curata con le erbe. Lei pure morì qualche tempo dopo. Questi sono casi in cui l'uso di certe terapie alternative è criminale ed è soprattutto in questo campo che è necessario informare l'opinione pubblica sui rischi che si corrono se ci si lascia sedurre da cure dolci, non invasive, naturali, che non intossicano, che sono osteggiate dalle multinazionali per ragioni di interesse, che curano non il sintomo ma la persona, eccetera. Omeopatia. Processo a Piero Angela. Purtroppo, i mezzi di informazione in generale non si impegnano molto per combattere questi pseudofarmaci. E il paradosso è che chi cerca di farlo come me può trovarsi sul banco degli imputati. Infatti, per un servizio di Superquark realizzato insieme a Gian Gipoli sull'inefficacia dell'omeopatia, ebbi 3 denunce per diffamazione da parte di medici omeopati. Le accuse principali erano 2: aver detto che l'omeopatia era acqua fresca e non aver fatto parlare i medici omeopati in base alla regola della par condicio. Spiegai alla corte in cosa consisteva l'omeopatia. Partendo da una sostanza ritenuta dagli omeopati simile a quella che ha provocato la malattia, si procede a una serie di diluizioni. In un contenitore si mettono 99 parti di acqua e una sola parte di questa sostanza attiva. Poi si agita verticalmente 100 volte. A quel punto si getta via il 99% del contenuto e lo si riempie nuovamente con altra acqua. Quindi la sostanza iniziale da una parte su 100 si riduce a una parte su 10.000, cioè a un decimillesimo. Poi si ripete l'operazione una seconda volta, una terza, una quarta e così via, sempre gettando il 99% della soluzione e tornando a riempire il contenitore di acqua. Da un decimillesimo si passa quindi a un milionesimo di sostanza attiva, poi a un 100 milionesimo, a un decimiliardesimo. Alla 13ª diluizione non esiste più statisticamente una sola molecola della sostanza iniziale e si continua ancora a diluire 14, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 120 volte. A quel punto non esiste più alcuna molecola che sia stata in contatto non solo con la sostanza attiva, ma neppure con l'acqua che era stata a contatto con lei. Insomma, acqua fresca. Devo dire che la definizione nel servizio non era mia, ma di un illustre immunologo. Ed è quest'acqua che costituisce il farmaco miracoloso per curare i malati. Ci furono in tutto 5 processi, compresi i ricorsi. Ero difeso dall'avvocato Giulia Bongiorno, persona eccellente e molto aggressiva in udienza. Fu interrogato a lungo e portai una documentazione probante, rapporti scientifici internazionali di grande autorevolezza e dichiarazioni di personalità del mondo della ricerca medica, quali i professori Umberto Veronesi, Silvio Garattini, Alberto Mantovani, ma anche 2 interventi di premi Nobel che si congratulavano con me per il servizio e che furono decisamente drastici nel giudizio sull'omeopatia. Rita Levi-Montalcini, una non cura potenzialmente pericolosa perché sottrae i pazienti da cure valide. E Renato Dulbecco, pasticci senza valore alcuno. Con questo volume di fuoco era difficile perdere la causa, anche se in uno dei processi il pubblico ministero, contrariamente agli altri che chiedevano la mia assoluzione, mi attaccò con notevole virulenza. Scoprii dopo, me lo disse lui stesso, che si curava con l'omeopatia e così pure la sua famiglia. Meno male che non era il giudice. La scienza non è democratica. C'era poi la questione della par condicio, cioè il non aver dato la parola agli omeopati in trasmissione. Questo era un punto estremamente importante, tanto sotto l'aspetto professionale quanto sotto quello giuridico, e fu interrogato a lungo al riguardo. La RAI, come servizio pubblico, ha infatti l'obbligo della pluralità delle voci, specialmente su problemi controversi. Perché non osservai questa regola? Spiegai al giudice che il mio era un programma scientifico, non un confronto di opinioni, e gli feci un esempio. Se io portassi in trasmissione due persone, una che sostiene che la Terra è rotonda, l'altra invece che la Terra è piatta, e dicessi alla fine «Avete sentito le due campane? Ora giudicate voi», sarei immediatamente delegittimato dalla comunità scientifica. Nella scienza, infatti, bisogna sempre portare le prove di ciò che si afferma. Nessuna rivista scientifica darebbe spazio, e non parliamo nemmeno di par condicio, ad affermazioni mai suffragate da prove e considerate addirittura prive di qualsiasi fondamento. In altre parole, dissi, la scienza non è democratica. Non è come in Parlamento dove ogni voto conta e ogni voce ha il diritto di cittadinanza. La velocità della luce non la si stabilisce a maggioranza per alzata di mano. Se io in televisione praticassi la par condicio mettendo sullo stesso piano scienza e pseudoscienza, sarei screditato e con me lo sarebbe il servizio pubblico. I giudici accolsero la mia posizione ed è molto importante perché stabilisce un principio che secondo me dovrebbe adottare anche la RAI. Questo criterio, per esempio, non è stato osservato all'epoca del caso Di Bella. E proprio per questo molti scienziati e medici si sono trovati in difficoltà in trasmissioni in cui i sostenitori del metodo Di Bella affermavano successi e presentavano risultati senza che fosse possibile controllarli seriamente. Un mio carissimo amico delle scuole elementari, Renzo Tomatis, mi raccontò la sua irritante esperienza in uno di quei dibattiti. Tomatis era un oncologo di fama internazionale, aveva passato tutta la vita in prestigiosi centri di ricerca negli Stati Uniti ed era poi diventato direttore del grande centro di oncologia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a Lione, in Francia. Era stato coinvolto nel caso Di Bella dal Ministero della Sanità. Al professor Veronesi era stata delegata la sperimentazione del metodo sui pazienti. A lui il compito di verificare sul computer del professor Di Bella i dati raccolti durante la ricerca. Quando venne da me a cena, mi confidò che questi dati erano largamente incompleti, pieni di lacune, e mi disse anche che era stato invitato a un dibattito televisivo, ma che era molto incerto se parteciparvi. Lo incoraggiai ad andare. Il giorno successivo mi telefonò infuriato, dicendo che non era possibile confrontarsi in una situazione emotiva dove bisognava replicare all'istante ad affermazioni non provate, al ritmo di un dibattito politico. Va ricordato che in quel periodo l'immagine del professor Di Bella era diventata per molti quella di un nuovo Galileo, di un medico onesto che aveva scoperto una cura efficace e non invasiva, ma che veniva ostacolato dalla classe medica e dalle multinazionali per questioni di interessi. Un altro caso ancor più clamoroso è stato quello di Stamina, una presunta cura a base di cellule staminali inventata da Davide Vannoni, laureato in scienze della comunicazione, in collaborazione con alcuni medici, poi messi sotto processo e condannati. La cosa sconcertante è come certi magistrati abbiano sostenuto la libertà di cura a spese del Servizio Sanitario Nazionale, sia nel caso Di Bella, sia in quello Stamina, e come certe televisioni abbiano lanciato messaggi controversi, in qualche caso dando largo spazio ai sostenitori di queste cure di fronte all'opinione pubblica. Bisogna dire che personaggi di questo tipo appaiono regolarmente in ogni paese, e già 40 anni fa l'Associazione Americana contro il Cancro ne aveva pubblicato un identikit. Eccolo. Sono persone solitamente senza un curriculum di alta qualità e senza una riconosciuta competenza nel campo. Non portano ricerche e dati corredati dai controlli previsti dalla comunità scientifica, ma citano casi singoli di guarigioni miracolose, difficilmente verificabili. Non si rivolgono alle riviste scientifiche per pubblicare i loro risultati, ma a giornali, settimanali, programmi radiotelevisivi. Si dichiarano vittime di persecuzioni e complotti da parte della comunità scientifica e delle case farmaceutiche, che tenterebbero di bloccarli per questioni di interesse. Minacciano di portare all'estero la loro geniale scoperta. Poi tutto finisce nel nulla. Come si controlla un farmaco? Ci si dimentica spesso che un farmaco, qualunque farmaco, prima di essere somministrato ai pazienti deve aver dimostrato di essere efficace attraverso una serie di severi controlli, attuati tramite sperimentazioni ben regolamentate. Deve cioè dimostrare di non essere tossico, di essere efficace nella cura di certe malattie e di essere più valido o altrettanto valido di altri farmaci già esistenti. Se non supera questa serie di prove, non può essere autorizzato. I prodotti alternativi proposti da pratiche come l'omeopatia non hanno mai superato i classici controlli. Hanno semplicemente superato la prova di non tossicità, come avviene per tutti i prodotti alimentari, dalla pasta alle caramelle. Queste cose bisognerebbe insegnarle a scuola, perché sono alla base del metodo scientifico. Non basta affermare la bontà di una cura o di una scoperta, qualunque essa sia. Bisogna portare le prove documentali, in modo che anche gli altri ricercatori, seguendo la stessa procedura, ottengano gli stessi risultati. È il passaggio dalla soggettività all'oggettività. È per questa ragione che le riviste scientifiche più autorevoli, prima di pubblicare qualsiasi articolo, lo fanno valutare da esperti anonimi che danno il loro parere. Se questo è negativo, l'articolo non sarà pubblicato o dovrà tornare corredato da ulteriori elementi. Certi rilassamenti verificatisi di recente in questi controlli hanno scatenato forti polemiche. I personaggi che una volta al bar venivano zittiti. Oggi la questione di una corretta informazione scientifica si è ulteriormente complicata con l'arrivo del web, perché chiunque può pubblicare in rete dati falsi, ricerche fasulle, denunce di complotti inesistenti o provocare allarmi privi di fondamento senza doverne rispondere. Infatti, mentre giornali, radio e televisioni hanno direttori responsabili delle notizie pubblicate e se pubblicano o trasmettono falsità sono passibili di sanzioni, oltre alla perdita di credibilità, sul web circola impunemente o quasi di tutto, anche perché l'autore può rendersi irrintracciabile. È un po' come se ognuno oggi possedesse un proprio giornale o una propria televisione, con cui poter raggiungere potenzialmente milioni di persone in tutto il mondo, senza alcun controllo e dicendo le cose più strampalate. Umberto Eco diceva che certi personaggi, che una volta straparlavano al bar dopo qualche bicchierino e venivano subito zittiti, oggi sul web possono pontificare e dibattere con autorevoli scienziati che, chiamati in causa, pazientemente rispondono ad accuse o insinuazioni diffamatorie. E poi, sulla rete si formano piccole catene di adepti che spesso moltiplicano a valanga i loro messaggi, dando l'impressione di essere decine o centinaia di migliaia. Un esempio è un caso sulle vaccinazioni esplose in Italia qualche anno fa. Sulla base di quello che aveva affermato sul finire degli anni 90 un medico britannico, Andrew Wakefield, poi smentito e addirittura radiato dall'ordine dei medici, e cioè che i vaccini potevano provocare l'autismo, un numero crescente di madri non ha più vaccinato i propri bambini. Non solo, ma sono apparsi sul web siti molto violenti contro le vaccinazioni, che sostenevano che fosse un crimine continuare a praticarle perché, in certi rari casi, possono avere conseguenze nefaste. Il Ministero della Sanità è dovuto intervenire in modo drastico, anche perché si sta abbassando la media dei bambini vaccinati, con il rischio di far riemergere malattie oggi sotto controllo. Anche il CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, è stato coinvolto in quest'opera educativa del Consiglio Superiore di Sanità. Dietro questa disinformazione non ci sono solo incompetenze e malafede, c'è anche l'obiettivo di creare scandalo, fare notizia e quindi aumentare il numero di coloro che vanno a vedere di che cosa si tratta. In questo modo il blog incassa più soldi dalla pubblicità. Inoltre, più la bufala è cliccata e più sale in classifica e più viene vista. Capitolo 7. L'emotività. Quando il pennino si muove. Ora vorrei affrontare un discorso molto importante che mostra quanto sia determinante l'emotività per accendere il cervello e creare attenzione nel lettore o nello spettatore. Questo meccanismo di attrazione verso notizie di contenuto emotivo può essere osservato direttamente e persino misurato attraverso un'apposita macchinetta. È un esperimento cui ebbi l'occasione di assistere alcuni anni fa in un'università americana. In un piccolo laboratorio del Dipartimento di Psicologia, un volontario era seduto con le spalle rivolte a un poligrafo. Il poligrafo, che qualcuno ha soprannominato la macchina della verità, è un apparecchio che registra le variazioni del battito cardiaco, della pressione arteriosa, dell'umidità della pelle, eccetera. Funziona applicando al soggetto in esame vari elettrodi che segnalano in sostanza il suo stato emotivo, rivelando così le sue reazioni a quello che sta ascoltando o vedendo. Nel caso in questione lo scopo era quello di misurare le reazioni emotive di uno studente di fronte ad alcune notizie scritte. Gli erano stati dati vari articoli di quotidiani e di settimanali e il poligrafo, con le oscillazioni del pennino, tracciava sulla carta le variazioni emotive a mano che la lettura procedeva. Il risultato di questi test, ripetuti con molti volontari, fu che era possibile misurare, in un certo senso, il grado di eccitazione, e quindi di attrazione, che ogni singolo articolo provocava, non solo a seconda degli argomenti, ma anche a seconda del modo in cui i fatti venivano raccontati. L'analisi effettuata dal poligrafo ha infatti mostrato che anche il modo di sparare certi titoli e di calcare su determinati particolari fa parte di una tecnica diretta a colpire l'attenzione e a far leggere un giornale o a far seguire una trasmissione televisiva. Nei sondaggi televisivi non è ancora stato adottato questo metodo, ma non mi stupirei se un giorno qualche programma pilota venisse testato su volontari muniti di elettrodi per capire quanta emotività e quindi quanta audience possa suscitare un programma oppure un conduttore. Va detto che questo puntare sull'emotività e quindi la ricerca a volte spasmodica di argomenti capaci di suscitarla a causa dell'aumento della concorrenza sta creando seri problemi per quanto riguarda il trasferimento di conoscenze tra la gente e la circolazione delle idee. Specialmente in televisione, lo strumento che raggiunge in modo capillare grandi masse di pubblico. Sulla torre. Dell'informazione abbiamo già avuto modo di parlare e abbiamo visto come essa sia condizionata dal pennino dell'emotività, sangue, sesso, soldi e dintorni. È infatti difficile suscitare emozioni sui problemi complessi, che sono poi quelli che dominano la nostra epoca. Per esempio, non è facile essere più attraenti di un delitto passionale, di uno scontro frontale o di una maxi vincita al Superenalotto, se si parla di competitività industriale, di riforma della pubblica amministrazione o di promozione della ricerca scientifica. Vari anni fa partecipai a un convegno sui problemi del Mediterraneo. C'erano esperti di tutti i paesi che si affacciano su questo mare, europei, nordafricani, medio orientali, per cercare soluzioni a situazioni del tutto nuove e preoccupanti: l'enorme aumento delle popolazioni rivierasche, specialmente nei paesi della sponda sud, l'inquinamento trasportato dai fiumi, la questione della pesca, l'aumento vertiginoso del traffico delle petroliere, un quarto di tutto il traffico mondiale, eccetera. Dopo 3 giorni di relazioni e di dibattito, non era uscito neppure un articolo di stampa né un servizio televisivo su questi argomenti. Il presidente del convegno, uno scienziato che conoscevo da tempo, mi domandò cosa si poteva fare per coinvolgere i mezzi di informazione. Gli risposi: «Vede quella torre medievale? Ebbene, lei salga lassù e si denudi, rifiutando di scendere. Se rimarrà qualche ora, usciranno articoli sulla stampa locale. Se rimarrà qualche giorno, se ne occuperà la stampa nazionale. Se resisterà qualche settimana, sarà la volta della stampa internazionale e i cronisti, spiegando ai loro lettori perché lei compie questa protesta, parleranno anche dei problemi del Mediterraneo». Al di là della battuta, c'è molta verità in questa provocazione. Ormai certi problemi vengono portati davanti all'opinione pubblica solo a rimorchio di un fatto emotivo. Se si riesce a fare scandalo, rumore o rissa, arrivano i fotografi e le telecamere, altrimenti no. Si rimane a livello di comunicati che nessuno legge. Non è sempre così, naturalmente. Ci sono giornali e giornalisti attenti a certe tematiche. Ci sono pubblicazioni specializzate di ottima qualità. Il problema è che si rivolgono a un pubblico ristretto, un pubblico già informato, mentre oggi è necessario raggiungere un pubblico vastissimo perché i politici raramente possono compiere delle scelte difficili se i loro elettori non ne capiscono il senso e l'utilità, o magari la priorità. L'emotività. Gli studiosi di biochimica cerebrale ci dicono che è fondamentale affinché un'informazione venga registrata dal cervello che nelle zone cerebrali profonde che regolano le emozioni si crei uno stato di allerta con la secrezione di particolari sostanze chimiche che permettono l'accrescimento di nuove connessioni nella corteccia. In altre parole, l'emotività non solo provoca attenzione, ma attraverso un processo biochimico permette la fissazione del ricordo. Basta pensare alla nostra memoria. Le cose che ci sono rimaste più impresse sono legate proprio a fatti emotivi: successi, insuccessi, nascite, morti, amori, separazioni, viaggi, incidenti, avventure, malattie, vincite, promozioni, litigi, paure, gioie, eccetera. L'emotività alla base della ricetta giornalistica per articoli o programmi televisivi di grande interesse con le famose S, soldi, sangue, sesso, eccetera, proprio per i meccanismi cerebrali necessari a fissare i ricordi, ha fondamenta forse più profonde di quanto si possa immaginare. Infatti, soldi, sangue e sesso sono in definitiva riconducibili a fattori essenziali per la vita. Soldi, cioè le risorse per vivere, sangue, la capacità di difendere con le buone o con le cattive quelle risorse, sesso, la riproduzione. Se consideriamo che la nostra specie, l'Homo sapiens, è apparsa, secondo le più recenti ipotesi dei paleoantropologi, circa 200.000 anni fa, dobbiamo concludere che per oltre il 90% della sua presenza sulla Terra l'uomo è stato un cacciatore e raccoglitore. La rivoluzione agricola è di circa 10.000 anni fa, quella industriale di 260 anni fa. Soldi, sangue e sesso rappresentano i cardini della sopravvivenza e della riproduzione dei nostri lontani antenati. Ovviamente soldi non in senso di dollari o euro, ma di risorse alimentari che evitavano la morte per fame. Quindi territori di caccia particolarmente ricchi di selvaggina, oppure di frutta e altri vegetali commestibili. Risorse, soldi, da difendere contro altri pretendenti nemici, sangue, per poter assicurare anche alla propria progenie un futuro, sesso. Tre pilastri esistenziali attorno ai quali ruotava la breve vita dei cacciatori e dei raccoglitori. Non è difficile immaginare che la selezione naturale abbia premiato quei meccanismi mentali, più emotivi che razionali, che permettevano di prendere le decisioni più rapide ed efficaci su questi aspetti vitali. E ovviamente nel breve termine, nell'immediato, che era l'orizzonte temporale nel quale si muovevano quasi sempre i nostri lontani antenati. Questo complesso sistema di risposte emotive, strategie istintive, comportamenti che nei nostri remoti progenitori assicurava la sopravvivenza, è dunque ancora presente in noi. Perché non si cancella in 10.000 anni, dalla rivoluzione agricola per tenerci larghi, o in 260 anni, dalla rivoluzione industriale per essere più rigorosi, quello che si è interiorizzato in almeno 190.000 anni, dall'origine dei sapiens, per non parlare dell'eredità degli ominini precedenti, anche loro cacciatori e raccoglitori. Autopilota mentale. Le funzioni di questi meccanismi mentali sono oggi almeno in parte diverse. Ci fanno appassionare, come abbiamo visto ai fatti criminali più efferati, sangue, ci inducono a comprare gratta e vinci o a giocare a bingo e alle slot machine o a guardare gli infiniti quiz in TV dove si vincono piccole fortune, soldi, e fanno sì che quasi la metà del gigantesco traffico su internet si diriga verso siti pornografici o comunque collegati a questo tema, sesso. Ovviamente ci interessiamo a questi argomenti anche perché riguardano la nostra esperienza personale. Il sesso per i problemi più vari, i soldi per il bilancio familiare, il risparmio, il mutuo, gli investimenti, il sangue per la nostra sicurezza. Secondo questa ipotesi biologico-evolutiva, le categorie mentali soldi, sesso e sangue, formatesi centinaia di migliaia di anni fa nella più remota preistoria dell'uomo, sono una specie di default mentale, un pilota automatico, e ci distolgono da un'attenta valutazione dei complicati affari pubblici, rendendoci così vulnerabili alla semplificazione, agli slogan e alle promesse che ci seducono con il tutto e subito, come se un troglodita preistorico fosse nella stanza dei bottoni di una società ipertecnologica. Usare le emozioni? Comunque stiano le cose, quando si parla a un grande pubblico di lettori o di telespettatori, per suscitare attenzione occorre sfruttare questo meccanismo delle emozioni? Sì. Ma le emozioni si possono stimolare in vari modi, non soltanto utilizzando il sangue, il sesso, i soldi, lo scandalo o lo sport, eccetera. Per esempio, rendendo interessanti le cose che si dicono. Per questo occorrono alcuni ingredienti molto importanti come la chiarezza, ma anche un modo attraente di raccontare. La chiarezza è essenziale perché se il pubblico non capisce, subentra subito la noia e si stacca la spina. Ma anche il modo di raccontare è determinante per stimolare continuamente la curiosità e l'interesse del lettore o del telespettatore, cioè per tenergli sempre acceso il cervello. Tutto questo si chiama divulgazione? È capitato a tutti noi di conoscere persone che si stanno ad ascoltare con piacere qualsiasi cosa dicano, e altre invece no. E così pure nei giornali ci sono certe firme che si fanno leggere con interesse qualunque cosa scrivano, e anche in televisione è così. Ma pure a scuola ci sono insegnanti che sanno come catturare l'attenzione e somministrare le lezioni in modo efficace. In altre parole, una comunicazione fatta bene oggi ha un ruolo cruciale perché i contenuti possono passare solo se sono messi nella forma giusta, cioè in un processo di informazione. Questo è tanto più importante quando si tratta di argomenti non facili, che debbono arrivare a un grande pubblico, perché solo la consapevolezza della posta in gioco permette una presa di coscienza dei problemi e può anche aiutare i politici a prendere certe decisioni se l'elettorato è più informato e capisce meglio la necessità di talune scelte scomode. La televisione, in particolare, potrebbe svolgere in questo un ruolo importantissimo. Potrebbe avere un'insostituibile funzione di stimolo, diffondendo conoscenze e facendo nascere in alcuni anche la voglia di approfondirle. Se il linguaggio è quello giusto, si possono inoltre raggiungere molte persone che altrimenti sarebbero escluse da questo circuito di conoscenze, offrendo loro una finestra per affacciarsi su paesaggi nuovi e comprendere meglio il mondo moderno.